Risa. Research Institute for Spontaneous Actions. Istituto di ricerca per azioni spontanee. Le chiamate tra me e te? Perché io ne ho registrato un po', tipo come metanarrazione. Cioè, se non vogliamo fare la finzione per cui dobbiamo di nuovo riparlare sulla cosa. Sì, io avevo pure intenzione di dire qualcosa di vaffanculo, siamo Risa, ma non ci abbiamo un filo perché non ci andava di fare. La voglia, la voglia. Perché però così ti incazzare già. La resistenza improduttiva. Sì. Ci voleva troppo stare. No, però a parte lo scherzo, su questo io ho fatto un ragionamento poco fa con Nello che è uscito, è una cosa interessante. Cioè, ma anche a livello di questi strumenti qua, dico, quando noi ci vogliamo dire, ci dotiamo di un sito, piuttosto che rincorrere... Perché è come se fosse una specie di feudalesimo digitale, no? Cioè noi abbiamo accesso a una serie di strumenti semplificati di cui non conosciamo e paghiamo un gran tributo senza sapere neanche perché. Cioè facciamo traffico per questi, facciamo data mining per sì. Big monopoli, eccetera, eccetera. Io prima mi sono messa a piangere perché ho pensato a quanto fosse un dato utile per qualcuno a livello di estrazione di informazioni, ma quanto al tempo stesso fosse un'entità invisibile che non può accedere a nessun tipo di, ad esempio, aiuto economico, coronavirus, perché per come lavoro perché io... Perché non hai visibile. Fatto mai, non hai mai versato un contributo a IMSS. Sì. Sì. Vabbè. No, per dire... No, lo so, ma anche io... Tra l'invisibilità e il mio valore, cioè, capito? No, però per questo io stavo facendo una metafora con nel post tipo 300, dopo quel periodo di quando ci furono, diciamo, un secolo di epidemie dove morì un botto di gente, eccetera, eccetera. La cosa che è successa immediatamente è che i contadini cominciarono a pretendere di più per fare le stesse cose che facevano prima, perché non solo erano morte più persone, ma in più perché fondamentalmente erano anche i lavori erano diventati pure più difficili perché dopo anni di incuria, cazzi mazzi vari. E lentamente questo portò ad una specie di nuova possibilità di sviluppare nuove cose. Per dire, banalmente, prima i contadini si potevano fare solamente vestiti di fustagno. Man mano che acquisivano un po' più di soldi, incominciarono a colorarsi anche loro i vestiti. Sembra banale, però tipo siccome tipo il battlefield reale è il digitale, cioè nel senso per quanto noi pensiamo poi. No, oh, Bruce, come cazzo ti chiami? Non ti devi permettere a mordermi, Jet! Bruce. Senta. No, ti voglio dire, siccome è il digitale, su minchia di battlefield, a noi ci continuano a dare degli strumenti primitivi come se avessimo una zappa, e tu c'è un'enorme estensione di terra che noi zappiamo, tutti con la nostra zappetta del cazzo, e questi in più si fottono i soldi, capito? Quindi, io direi di, nel design anche che facciamo dei nostri strumenti digitali, cioè tenere conto della primitività dell'appropriarsi di un mezzo di produzione. Quindi, piuttosto che rincorrere l'ultimo design, l'ultima minchiata... No, infatti no, facciamo una cosa super... E secondo me la prima cosa che potremmo mettere in questo sito super semplice potrebbero essere questi podcast. Sì, mettiamo il podcast, è proprio banalmente, ti giuro, io vorrei mettere un pad dove io scrivo. Chi vuole continuare, cioè o io, tu, o Ginocchino, cazzo è. Sì, sì, sì. Cioè, smetterla... Di no, dare, d'accordo, molto cioè riappropriarsi dei contenuti piuttosto che rincorrere l'ultimo design, perché ho anche capito che la verità è che gli strumenti che abbiamo a disposizione, essendo proprietari, le versioni che abbiamo noi sono limitatissime. Anche sì, dei sì. Temi di WordPress, per quanto sì, tu sì. Puoi entrarci, fare cazzo e dire, tutto tende all'uniformità, alla standardizzazione della comunicazione. A sto punto, se vogliamo uscire da sta dinamica, dobbiamo fare tipo, so che sembra una cazzata, però tipo il punk del digitale. Che è già sulla striscia di K-Punk, di Mark Fisher, o dei Wiki, o del GitHub, questa estetica tipo molto... Proprio, sì, del Wiki, sì. Del tool, capito? Proprio tool e basta, solo strumento, vaffanculo. E niente, tipo digital primitive tool. No, non gli dà un nome in inglese, per favore. Ok, strumenti primitivi digitali. Vabbè dai, Frank, ti saluto che ora mi devo preparare... Frank, sì, ti... Frank. Aspetta, ti passo... Aspetta, oh, ti Frank! Ciao, Cisco! Ciao, Gioia! È appena comparso una squarcia di sole qui a Torino e mi sono catapultata sul balcone. Invece nonna mi ha fatto vedere che sta all'aria aperta. Ah, sì, ora sta correndo. Sto facendo tutto io. Vabbè, però è normale, tutte queste sono cose mie. Yeba, do you have the skill to do it? No, I'm not an expert. Now, only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. You're invited to be on Oprah, and you don't have a problem, but you want to go on the show, and so you need a problem, and so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem, and so you're probably going to get nailed, you're going to get exposed, and you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem. The shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's one of the 60% of the U.S. population. 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control. Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. Because only an expert. See, there's a problem. And seeing the problem is half the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. No problem. No, io sono a Istanbul, non mi può chiamare a meno che non mi chiama su WhatsApp. Comunque, forse sono riuscito a capire un progetto da fare qua. Però è un po' difficile, non, forse non c'ho tanto tempo. Non c'ho un cazzo di voglia di pittare. Vabbè, mi sono ammalato questa settimana, sono andato all'ospedale e mi hanno buttato fuori senza fare il test, anche se volevo pagare. Delirio. Sì, diciamo, la cura ha senz'altro un aspetto positivo, che è quello di averci fatto tutti quanti capire il significato della morte, del dolore, e la preziosità della vita umana. Questo non è qualche cosa di scontato, basti pensare che nella nostra storia la vita umana è stata spesso svalutata e utilizzata molto alla leggera per conquiste di potere o per l'arricchimento di alcune classi sociali, e vedere invece una società che ha così poca tolleranza verso la morte. Questo lo vediamo più che in Italia, in paesi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, che forse reduce ancora di una certa visione imperiale in cui si può sacrificare una parte della popolazione per la grandezza nazionale, avevano in prima battuta tentato di portare avanti politiche mirate a salvaguardare l'economia pur mantenendo un costo in termini di vite più grande di quello dei paesi che avevano scelto la quarantena. E poi questa cosa si è dimostrata essere assolutamente insostenibile, la stessa popolazione non voleva, voleva essere rinchiusa in casa per non tollerare lo spreco di vite umane. Questo è positivo, diciamo, ci parla di una società occidentale che ha diminuito la propria tolleranza per il sacrificio umano all'altare dell'arricchimento, dell'accrescimento di potenza. Va detto però che questa paura, che ha degli aspetti positivi, sembra di avere un po' un orizzonte temporale limitato, nel senso noi abbiamo questa paura di fronte a un'emergenza che è quotidiana, che è costante, che viene raccontata ogni giorno dai nostri media, e questo è qualcosa di abbastanza naturale e giustificato. Non abbiamo però ancora sviluppato la capacità di avere paura per qualche cosa che è un po' più in là da venire rispetto a qualcosa di immediato. Banalmente, ne abbiamo paura adesso di ammalarci e finire in un ospedale che non è in grado di curarci, poi non abbiamo mai avuto paura in passato del significato dei tagli alla sanità e di quanto questi tagli avrebbero potuto portare a una crisi della sanità come quella che stiamo vivendo oggi. O a livello più macroscopico, non abbiamo mai avuto realmente paura di che cosa significa cambiamento climatico, quando sappiamo che questa crisi è una piccola prova generale della potenziale catastrofe climatica che ci aspetta se continuiamo con un modello di sviluppo assolutamente insostenibile. E quindi forse dovremo uscire da questa emergenza tenendo un certo senso di paura, ma provando a proiettarlo un po' oltre, e a capire che se si vuole rispondere alla paura del futuro bisogna cambiare nell'oggi le nostre pratiche individuali e comuni in quanto società e in quanto sistema economico. Ecco, non possiamo avere la paura soltanto all'ultimo momento utile, perché sappiamo che non funziona. Ho appena cercato di trasferirmi a Londra, non trasferirmi, ma ho lasciato casa a Milano per andare all'avventura a Londra il 3 di marzo. E niente, quindi il mio ritorno qui è un po' traumatico, nel senso che per l'ennesima volta, stavolta però non per colpa mia, torno indietro e bisogna ricominciare tutto, però torno con un'altra set mentale, no? Perché poi torni qua e sai, non c'è più quella voglia di scappare via perché tanto non puoi scappare da nessuna parte. E in più sai che vi dico, questo modo tipo di vivere qua, tipo in quarantena, a parte il fatto di non poter uscire, di non avere interazioni, che comunque già dal primo giorno iniziano a farsi sentire, perché comunque nei giorni scorsi a Londra sono stato molto, molto attivo, insomma, soprattutto negli ultimi 2 giorni, a salutare amori e amicizie appena nati. Però non è che differisca tutto ciò dalla mia vita normale, oramai da meno 3-4 anni, nel senso che tutti i giorni da 3-4 anni io cerco di capire cosa fare, come tutti questi giorni qua ti svegli. Sempre poi più tardi di quando tu pensi, oppure stai sveglio tutta la notte e cerchi di capire cosa fare, ti fai un minimo di piano e poi vedi se alcuni giorni riesci a farli, altri giorni proprio non riesci a fare un cazzo. Sì, c'è una dimensione, diciamo, più privatistica e una più sociale e collettiva. A livello anche individuale, penso che sia utile ammettere che questa è una situazione che per gran parte di noi è scomoda e porta anche a dei disagi psicologici reali. Per carità, c'è chi veramente ha dei problemi psicologici attraverso questa quarantena, anche persone che tutto sommato stanno bene, che io sento, amici o familiari, vivono una sorta di giostra dei sentimenti e delle emozioni, una sorta di lieve bipolarità che non va taciuta, diciamo. Dobbiamo essere abbastanza onesti con noi stessi e con gli altri nel non far finta di stare bene quando non lo stiamo e senz'altro non lo stiamo sempre in questi giorni. Quindi riuscire a mantenere dei rapporti umani che non siano soltanto, diciamo, tappabuchi per la noia, l'ennui che si può vivere in questi giorni, ma che effettivamente ci aiutino anche a dare un senso a quello che è il nostro rapporto di amicizia con tante persone. Spesso quando noi vediamo, incontriamo anche quotidianamente o regolarmente i nostri amici, si sviluppa un rapporto abbastanza superficiale, no? Si va a bere insieme, si va a mangiare bene, si sta fuori la sera. Forse questo è un momento invece per entrare un po' di più nella psicologia propria, ma soprattutto dell'altro, sviluppare più empatia, riuscire a restituire un senso di scambio effettivo a queste relazioni umane che rischiavano di venire un po' mercificate, diciamo, dagli amici di Facebook, da questa straordinaria esplosione della socialità che però rischiava alla fine di diventare abbastanza superficiale anche con gli amici più cari. E invece, e questo insomma, cerco di farlo il possibile attraverso, come tutti quanti, le tecnologie che per fortuna abbiamo a nostra disposizione. C'è poi una dimensione sociale perché è evidente nel momento in cui siamo tutti quanti isolati, come piccole monadi, ciascuno a casa propria, è molto difficile dare delle risposte collettive a quella che è un'emergenza sociale che riguarda tutti quanti noi, ma anche un sistema che non funziona più, un sistema sanitario evidentemente, ma anche un sistema di sfruttamento del pianeta. E trasformare questa solitudine in un riscatto collettivo e quindi anche una visione di alternativa sistemica è molto complicato in questo momento, perché è qualcosa che noi siamo abituati a fare attraverso i rapporti anche fisici, lo stare in piazza insieme, l'andare ad assemblee, l'andare ad incontri, ad eventi. E ora quello che io un po' sto cercando di fare è di mantenere con alcune realtà, organizzazioni, gruppi con cui collaboro questa idea che quando usciremo di casa, dovremmo uscire di casa non soltanto per andare al bar o per tornare ad abbracciare i nostri amici, anche, ma dovremmo uscire di casa con delle idee di trasformazione perché questo non accada più, quindi per avere anche delle strutture pronte a essere mobilitate in quello che sarà uno scenario estremamente grave, perché finirà l'emergenza sanitaria, speriamo tutti quanti, entro la fine della primavera, ma subentrerà un'emergenza economica, politica, quindi geopolitica, probabilmente senza precedenti, e all'interno di quel terreno di gioco noi non possiamo soltanto abbracciarci e andare a bere uno spritz con degli amici, dobbiamo avere già sviluppato le idee, potenzialmente anche delle pratiche di mobilitazione per essere degli attori in campo in questo momento, nei prossimi mesi, il prossimo anno, che rischia di essere veramente uno spartiacque nella storia recente. Sì, Magari ma questa struttura che noi pensiamo di interviste e robe la possiamo riproporre, però è più che identificando i temi, cioè come se incrociamo i temi che sono nelle domande con dei gruppi o comunità prossime a Risa. sì. Quando noi ci diciamo non ne siamo capaci perché viviamo del pregiudizio di essere soli e estranei al mondo, noi dobbiamo fare una rivoluzione mentale. Siamo le nostre relazioni, dunque dobbiamo darci gli strumenti per metterci in relazione. Siamo il mondo che abitiamo, siamo parte del mondo che abitiamo, dunque dobbiamo rifare il mondo, dobbiamo rifare lo spazio, dobbiamo fare alleanze, non solo tra noi umani, ma come ci è stato ricordato da una meravigliosa creatura che è qui in giro, dobbiamo allearci con ciò che non è umano, con tutti quegli esseri esserini che lavorano la terra, penso ai batteri, penso a tutta la chimica che permette al mondo di andare avanti, gli animali, i cani, gli uccelli, le api che permettono ai fiori di fiorire, c'è tutta una comunità vivente che è pronta ed è alleata già con noi, perché questa parte di mondo vivente non ci sta facendo niente. Siamo noi che stiamo continuamente erodendo quel mondo. Sono scomparse migliaia di specie viventi. Arriviamo qui. Perché è importante darsi e costruirsi beni comuni? Perché i beni comuni sono uno spazio inedito, uno spazio che avevamo e che ci è stato tolto. Perché abbiamo diviso il mondo tra le cose di qualcuno, di qualche singolo, e le cose di un signore che chiamiamo sovrano, grande, che è il proprietario assoluto di estensioni di terra. Peccato che quel sovrano, tramite rivoluzioni enormi, era stato messo lì per i diritti di tutti, e molto spesso invece quel sovrano vende il nostro patrimonio, e tutti i comuni, costretti e ricattati dal debito, in questi mesi stanno mettendo a catalogo quanto vale il patrimonio, frutto del lavoro collettivo, per venderlo a multinazionali. San Vito ha preso 10 di questi spazi e ha detto no, non te li do. Io questi spazi qua li faccio diventare un'infrastruttura portante per la mia comunità, perché la mia comunità è in crisi, la mia comunità ha perso le sue radici, la mia comunità si sente sola, si sente una società di individui, che ossimoro, società e individui, sono due cose che non possono andare insieme. Allora noi dobbiamo fare una società di esseri umani in relazione, e per farlo abbiamo bisogno di strumenti, non si può fare teoria su questo. Dobbiamo darci gli strumenti per rimetterci in relazione, cioè abbiamo bisogno di spazi in comune, perché non è possibile che io passo da casa mia e poi passo al bar dove o consumo qualcosa o sono allontanato dal banco. Ho bisogno di spazi, di piazze, di palazzi, di aree verdi dove posso stare a fare nulla, il beato nulla. Perché è lì che accadono gli incontri, è lì che si fa amicizia, è lì che ci si innamora, è lì che ci si appassiona, non quando io sto a lavorare o sto chiuso in casa mia, che sono pure due luoghi belli, il pubblico e il privato, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più intenso. Abbiamo bisogno di qualcosa che non sia né pubblico e né privato, che sia intimo. Sia intimo. Perché oltre il privato c'è l'intimità. E l'intimità si costruisce guardandosi negli occhi e facendo cose insieme, volendosi bene, alleandosi. Ehi, buongiorno, quando possiamo sentirci, a vederci, amarci? Minchia, bellissimo, devo smessi di fare i coglioni. Intelligenza artificiale, ma dove vai? No, mi sta spingendo il telefono! No, basta. comunque non cambio un cazzo perché anche prima ci traccavano, quindi vaffanculo. Non è questo ormai il problema. Sì, noi abbiamo visto un gigantesco dispiegamento dello stato di polizia, dello stato di polizia digitale nei paesi asiatici, ovviamente in Cina, ma anche in Corea del Sud, che è comunque una democrazia, ma ha attuato un sistema di sorveglianza attraverso l'intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale, la geolocalizzazione che noi ci sogniamo. Ci siamo accorti di essere molto indietro per quanto riguarda la capacità dell'utilizzo delle nuove tecnologie in Europa rispetto a questi paesi asiatici. Io penso che dobbiamo stare molto attenti a tenere insieme ma distinti i temi della tecnologia e della privacy e quindi anche del diritto alle libertà civili e al diritto di non essere controllati e sorvegliati dallo Stato. Perché se restiamo indietro sullo sviluppo tecnologico, se non abbiamo una capacità di uscire da questa crisi con una grande discussione europea, perlomeno su che cosa vogliamo che sia la tecnologia del futuro, se non prendiamo in mano gli strumenti che la tecnologia sta dando a noi e ancora di più ad alcuni stati, il rischio è di ritrovarsi in una situazione di arretratezza tecnologica che diviene poi la strada primaria per prendere alcuni elementi di quella polizia digitale che vengono dall'Asia nel momento in cui una nuova crisi dovesse colpirci. Ossia, non usciamo fuori da un periodo storico che vede un utilizzo sempre più coercitivo e di sorveglianza della tecnologia, mettendo la testa sotto la sabbia e facendo finta che noi possiamo fare a meno di questa tecnologia. Ne usciamo fuori aprendo un grande dibattito su come la utilizziamo questa tecnologia in un ambito democratico, in un ambito di salvaguardia delle libertà civili, ma che è capace di utilizzarla e non semplicemente di distogliere lo sguardo da questa tecnologia. Tendenzialmente, storicamente, chi resta indietro alla fine rincorre i peggiori sviluppi di chi è in prima fila e noi questo non possiamo permettercelo oggi, per cui io spero che si aprirà questo dibattito appena finita l'emergenza. Dai, io dove sei? Dove stai? Voglio affermare l'incertezza mia, il metafisico sentire mio, il dialogo fra me e qualcosa che in me è vivo, di una vita più antica della mia. Dire che non è, non è, non è, non è così! Come ci danno a bere i signori del tempo? C'è un mistero che viene messo a tacere e io ancora l'ho dentro, non ancora domato. Ecco, invecchiare è forse la consegna del proprio fuoco al tempo, al qui, al finito, a ciò che si misura e che si fa vedere. Sì, io ho passato, come sai, tanti anni della mia vita recente a lavorare sulla possibilità di costruire uno spazio politico continentale attraverso diversi meccanismi, ONG, movimenti politici, movimenti sociali, e non ti nascondo che in questo momento io stesso, nonostante tutto il mio europeismo radicale, ho qualche fondato dubbio sulla tenuta di questa visione. Il rischio che abbiamo di fronte è quello di un'Europa evidentemente incapace di dare una risposta ambiziosa alla crisi gigantesca che sta per arrivare a livello economico e a livello politico, che si dimostra quindi assolutamente inutile nel far fronte, nel dare sicurezza ai propri cittadini, sicurezza intesa come sicurezza sociale, sicurezza economica evidentemente, e che diviene una brutta copia di uno strumento coercitivo o banalmente inutile come tante istituzioni sovranazionali, in un contesto in cui però non c'è una facile uscita nazionale. Si andrebbe la padella nel braccio. L'uscita nazionale è quella che vediamo da parte di Viktor Orbán in questi giorni, è quella di rinchiudersi in uno Stato nazionale che è esso stesso sempre più coercitivo, autoritario, slegato anche da quelle minime garanzie che può dare l'appartenenza all'Unione Europea. E quindi rischiamo di trovarci da qua a 6 mesi, un anno, in una condizione in cui la visione di uno spazio politico europeo non appare più credibile. Ai più la visione di un ritorno a una potenza nazionale appare come una barzelletta o come il salto verso un autoritarismo macchiettistico, e questo sembra tagliare qualunque speranza di cambiamento politico tanto in un livello quanto nell'altro, per cui la situazione io la vedo abbastanza preoccupante, devo dire. Questa discussione che si sta avendo sugli Eurobond è importante, non tanto, o meglio, non esclusivamente per il significato economico di un piano di investimento, che pure sarebbe assolutamente necessario. Vediamo già in Italia gli effetti di un mese di quarantena, soprattutto al sud, e li vedremo amplificati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma proprio per provare a costituire questa forza pubblica, questo contropotere cittadino che chiede un utilizzo dell'Unione Europea non solo come meccanismo di sorveglianza contabile, ma come strumento di potere comune delle persone, che dei 500 milioni di persone che fanno parte di questo spazio economico, che dovrebbe divenire uno spazio politico. Io penso che in questi giorni stiamo vedendo mancanza di una reale capacità di mobilitazione transnazionale. Tu hai menzionato l'articolo di Calenda in Germania. Quello di cui avremmo bisogno è una possibilità di lavorare con movimenti sociali, con partiti, con sindacati tedeschi, olandesi, per mettere in chiaro a quelle popolazioni e a quei governi perché una comune risposta negli interessi in primis dei paesi del nord, perché se va tutto quanto a scatola fascia il gioco forza va anche per loro. E qui torniamo a qualcosa che noi abbiamo già vissuto, no, nel 2015, nella crisi della Grecia, in cui era così difficile rendere evidente che quell'emergenza non riguardava soltanto il popolo greco, ma riguardava tutta quanta l'Europa e avrebbe richiesto una comune mobilitazione transnazionale per un diverso sistema economico. Quindi quello che io sto un po' cercando di fare in questi giorni è di agganciare il più possibile i rapporti che abbiamo con istanze di movimento e sindacali di quei paesi per provare a mettere un po' di pressione e quindi costituire anche questo rapporto transnazionale, anche perché soprattutto se le risposte, come temo sia possibile, non saranno all'altezza della situazione, sarà ancora più necessario avere uno spazio politico non istituzionale ma costruito attraverso il rapporto fra istanze di movimento dei diversi paesi europei, per evitare che la destituzione dell'Europa istituzionale e tutto quanto l'antagonismo che verrà gettato verso questa Europa incapace di rispondere a questa crisi diventi immediatamente nazionalismo. Quindi abbiamo ancora più bisogno di costruire un'altra Europa, intesa non come un'altra Unione Europea, ma un'Europa che nasce dalla messa in comune delle istanze di movimento e della società civile in questo spazio continentale. We'll be right back. Primo fluttuare. Insieme, le tre voci all'unisono. Scriviamo dal crinale, da un punto alto. È come se fossimo arrivati alla cima dell'insieme delle cose di cui liberarsi e liberate. Calibano. Aggiungi e da liberare. Eugenio. Non era previsto. Donna. Ascoltalo. Scriviamo dal crinale, da un punto alto. È come se fossimo arrivati alla cima dell'insieme delle cose di cui liberarsi, liberate e da liberare. Non c'è una gran visuale. C'è tutta la visuale. Abbiamo corso, ma piuttosto tranquillamente. Mille peripezie in questo andare. Calibano. Quanti casini. Donna. Non interromperlo. Continua. Eugenio. Ecco, adesso è difficile. Donna. Fregnone, scrivi. Abbiamo incontrato amori e canaglie, canaglie d'amori e canaglie canaglie. Abbiamo fatto botte con i caproni, gli stolidi forbiti, i succhi a ingegno, i mangiapatos, i burosauri, i tesserati di ogni sorta e nessuno si sarebbe aspettato di trovarsi. Calibano. Fermo. Eugenio. Perché? Donna. Un attimo. Calibano. Scusi. Eugenio. Chi? Calibano. Niente. Serviva una pausa. Eugenio. Sul trovarsi? Donna. Pare di sì. Calibano. Da dove riprendiamo? Donna. Taglia secco. Si dice quello che si deve dire. Abbiamo incontrato amori e canaglie, canaglie d'amori e canaglie canaglie. Abbiamo fatto botte con i caproni, gli stolidi forbiti, i succhi a ingegno, i mangiapatos, i burosauri, i tesserati d'ogni sorta e ci siamo incontrati. Calibano. Non male. Eugenio. Molto secco, in effetti. Donna. Finalmente, cazzo. Insieme le voci. Soltanto le fluttuazioni repentine degli schemi organizzati produrranno l'effetto dell'organizzazione. Fu quella un'occasione significativamente rara in cui ognuna delle tre voci si trovava in perfetta comodità con l'altra. Dopotutto, man mano che Fratto Fratto ne faceva esperienza, era riuscito a capire che, in assenza della vertigine di Calibano per Donna, l'orizzonte si appesantiva su un limite che raccoglieva, ma senza un al di là, ed in Eugenio si gonfiava a piccoli passi la mise di un narciso dalla soluzione sempre pronta. Quando era l'intuito di Eugenio a dileguarsi, da ubriaco ad esempio, Calibano rischiava frenetici giri a vuoto e Donna restava spodestata del suo quichotte. Quando invece era quest'ultima a mancare, Calibano ed Eugenio erano capaci di sparare a salve in tutte le direzioni, fino a cadere sfiniti senza ricordare nulla e con la generica sensazione di aver compiuto un ulteriore passo determinante nella loro amicizia, che però, a dire il vero, non aveva mai avuto un momento in cui fosse stata scalfita davvero. Io invito a non abbandonare ancora il campo perché non è ancora chiusa la partita. Noi abbiamo non soltanto questi 10 giorni che si sono dati per avere qualche prima risposta a livello di Eurogruppo, di Consiglio Europeo, ma abbiamo di fronte dei mesi che saranno, o meglio, che dovrebbero essere mesi di lotta. Si aprirà una lotta per l'Europa nei prossimi mesi attraverso questa crisi economica che ci attanaglierà tutti quanti e dobbiamo essere protagonisti senza partire già con l'idea di aver completamente perso e di doverci abbandonare alla malinconia di un continente che si è dimostrato irriformabile. Aspetterei di avere questo pessimismo e anzi raddoppierei i tentativi di costruire un contropotere rispetto a quello che sta avvenendo, anche perché si danno delle situazioni nuove. Questo asse fra i paesi del sud non c'era banalmente nel 2019 quando hanno messo all'angolo Tsipras. Ci sono delle contraddizioni anche all'interno di alcuni governi più austeritari che possono essere fatte esplodere. C'è una battaglia in corso, siamo veramente alle prime scaramucce, sì. E anche se questa, siamo d'accordo, potrebbe essere l'ultima battaglia, non è ancora finita, per cui giochiamocela. Uè, sono su un set di una pubblicità a guadagnarmi 2 lire, ci sentiamo verso ora, dopo cena, perché salgo in bus alle 7, vabbè, a dopo, ciao. Sì, Frank, lascia stare che la cosa è tragica, siamo disperati. È interessante perché io sono come te molto convinto della necessità di costituire un maggiore protagonismo e quindi anche una maggiore autonomia delle realtà locali, municipali in primis, però forse scontiamo un po' questa differenza fra un maggiore potere istituzionale a livello locale e un maggiore potere comune, se vogliamo, della cittadinanza a livello locale. Il potere comune funziona, è quello che vediamo a Barcellona, è quello che vediamo in piccoli esempi in Italia, laddove è concesso, di auto-organizzazione sociale dei cittadini che si riprendono i loro spazi e si riprendono cura di beni comuni che erano stati loro tolti e che partecipano anche in alcune istanze come Barcellona nel governo stesso della città. E questo funziona, tutto il discorso sul neomunicipalismo, eccetera, eccetera, assolutamente necessario da portare avanti. Quello che però stiamo forse vedendo in questo periodo è che non funziona la riduzione a scala locale del potere politico istituzionale, perché rischia di diventare una macchietta di se stesso in cui dei cacicchi tendenzialmente impotenti, perché a quel livello il potere è limitato, giocano a chi si prende la maglia di Pinochet per primo, a chi fa la voce più grossa, a chi fa il finto leader autoritario senza poi avere granché autorità, per sopperire a questa impotenza del potere quando lo porti a un livello molto, molto locale e si trova di fronte a delle sfide che sono gigantesche, che naturalmente lo sorpassano, come questa crisi del coronavirus, ma anche come banalmente una crisi economica. Quindi forse abbiamo bisogno di molto più localismo, ma deve essere un localismo del comune, non un localismo della politica istituzionale, perché la politica istituzionale fatta piccola ci rischia di portare in tante piccole Ungherie regionali, e questo sarebbe francamente un disastro. Maledetto giumumento che grapivo l'occhio in terra, da stu perno sti vent'anni di tormento, culo cori sempre in guerra, notti e giorno, terra che non senti, che non vai capire, che non ti ci nenti, vedendo mi morire, terra che non teni, partiri e non ci doni per farli tornare, e piangi chi ha Nino, e piangi chi ha uno dei problemi che si ha è che la nostra amministrazione, dopo la riforma degli anni 90, in cui chi mette la firma si piglia la responsabilità singola, il dirigente si piglia la responsabilità singola, e con questa voracità del debito, su cui se tu sbagli una carta sei immediatamente portato avanti alla Corte dei Conti, gli amministratori sono un po' chiusi, mettiamola così, non si coordinano tra di loro e ne sanno più utilizzare tutti gli strumenti, non hanno lo spazio mentale, la fantasia per ripensare gli strumenti. Allora una cabina, un ufficio per i beni comuni serve a coordinare i vari ambiti, serve a dare suggerimenti all'interno del comune a se stesso, cioè il comune cerca di coordinarsi e capire quale strumento migliore per fare le cose. Io nella mia esperienza personale, quando ho incontrato un funzionario pubblico, ho sempre avuto una risposta, che ve la dico in napoletano perché rende, non si può fare, che significa non si può fare? È la malattia, un grande filosofo di queste terre diceva il non sipotismo è la malattia del mezzogiorno, non si può fare, tutte cose non si può fare, la carta non si può firmare, la carta diventa un'arma letale. Allora noi dobbiamo dire si può fare, bisogna fare tutti gli sforzi per trovare gli strumenti per farlo, perché quello che vi abbiamo detto si fa con gli strumenti dell'ordinaria amministrazione, non si fa, ma strumenti armati da sognatori, da gente e persone che hanno davanti un orizzonte. E chiusa la mia parte, credo non debba dire più niente, voglio solamente riprendere il filo con il titolo. e salutare e chiudere questa mia parte con un augurio. Il metodo favoloso vi ricorda qualcosa, no? Il giovane favoloso. Quel meraviglioso film su quel meraviglioso poeta che è Giacomo Leopardi. Brevissimamente un episodio. Giacomo Leopardi non era un uomo triste e malato. Giacomo Leopardi era un giovane pieno di entusiasmo e un rivoluzionario. E decide per questi motivi di scapparsene di casa, perché non lo sopportava più il padre, che era autoritario. Era una quintessenza del patriarcato. E un giorno, falsificando il documento con un amico che aveva conosciuto di nascosto, falsificando i documenti, riesce ad avere il passaporto per uscire dal suo paese, Recanati, e scappare. Guarda caso, se ne viene a Napoli. E scappa, e quando scappa lascia sul tavolo di casa una lettera, pubblicata da pochissimo, una lettera molto bella, dove si rivolge al padre, e spiegando la fatica che ha fatto a sopportarla quella casa, la fatica degli studi che però non erano mai ricompensati dalla gioia di un sentimento, dalla gioia di un'avventura, era solo studio e basta, perché quel padre era proprio un fedente, autoritario. E allora lui dice: padre, io voglio vivere con pieno spargimento di cuore, questa, pieno spargimento di cuore. E allora io vi auguro di vivere queste esperienze e beni comuni con pieno spargimento di cuore. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I don't know that I love you. And I know that you love me too. What a wonderful world this would be. È una domanda impossibile, perché naturalmente c'è sempre un futuro, se non fosse il futuro in cui rispondi alla domanda. È un po' come il film Figli degli Uomini di Alfonso Cuarón, no? In cui un virus rende tutti quanti sterili e effettivamente non c'è più futuro umano, perché non c'è più riproduzione non sociale ma biologica della specie umana. Io, se posso ribaltare la domanda, penso che invece quello che abbiamo scoperto attraverso questa crisi è che il futuro è tornato di gran cassa. Noi siamo comunque una generazione che è cresciuta nei pacificati anni 90, no? Gli anni della fine del futuro, oltre che della fine della storia, in cui sembrava che un solo modello fosse egemonico, il capitalismo liberale, che il futuro fosse tutto più una copia un po' più piacevole, un po' più arricchita del presente. Noi veniamo già mentalmente da un passato in cui il futuro non c'era, in cui il futuro era morto, e questo credo che giustifichi anche un certo collasso sistemico e psicologico dell'Occidente di fronte a quello che sta accadendo, che va a sommarsi ad anni di grande ricostituzione geopolitica. Quindi noi viviamo paradossalmente il tempo in cui il futuro torna protagonista, e noi siamo quelli che non avevano futuro e che oggi tornano ad averlo. Quindi la domanda è giusta, ma io la ribalterei: come viviamo ora che torniamo ad avere un futuro e che si apre di fronte a noi veramente una prateria completamente ignota, con una esperienzialità che non è mai stata la nostra o quella dell'Occidente, salvo alcuni paesi come può essere l'ex Jugoslavia o naturalmente i paesi dell'Est, negli ultimi 20-30 anni? Perché proprio il futuro di cui noi abbiamo perduto concetto e perduto capacità di lavorare, questo torna, e così chiudiamo il discorso che facciamo sulla paura, questa paura giustificata ma completamente presentista, la paura sull'emergenza che ti viene narrata alle 8 di sera dal telegiornale, invece di una paura proiettata in un futuro che sappiamo essere straordinariamente critico e tenebroso, senza una trasformazione umana come forse non c'è stata negli ultimi 60 anni, direi almeno dai tempi della rivoluzione francese. Quindi ecco, torniamo a capire come viviamo il futuro, perché quello che noi sappiamo fare è vivere senza futuro, ma non sappiamo vivere nel momento in cui la storia ritorna. Oggi è tornata. Poi rispondo che io porta. E dove va? Va dove vuoi che vada. Ah. Più in grande. Possiamo provare a Research Institute for Spontaneous Action. But really, do you have the skill to do it? No, I'm not an expert.